c'avevo l'unità centrale. Proprio dopo io. E a volte si fanno degli sbagli e si paga. Purtroppo è così. Qui c'avevo il microfono con la tastiera, io lo potevo spegnere, potevo fare tutto con quel microfono. Era un microfono remoto quello lì. Che... E l'ho venduto 500 euro, l'avevo pagato 750 all'ora. Ah, ma qui c'ho quasi 900 euro. Figurati. Invece di perdere la quotazione, ha salito di quotazione, ma dimmi tu. Magari è andata lì, anche i Galassi Saturn Record stavano avendo 350, quelli normali, boh. Io ho sempre pagato 200 euro, andiamo due zinc, tutti 200 euro l'ho pagati e li ho rivenduti 200 euro, mai una linea in più. Io l'857 l'ho dato 500 euro, praticamente l'ho regalato, perché era nuovo nuovo. Era. L'ho dato a un amico radiamatore che lo doveva dare a sua volta a un altro radiamatore, perché lui ce l'aveva uguale. Cappagatto. Sì, a volte si fanno degli sbagli, magari al momento non ti la futti nuda, poi te le pinti perché magari ti serve. Perché non lo stavo usando, ce l'avevo sempre fermo in casa, capito? E me l'ho venduto per quello. Buonasera. Ciao Eugenio, buonasera a lei. Eugenio, sarà lei. Oh, ciao Marco. Sì, sono entrato come un po' saluta lui, che poi facciamo l'imitazione di Chicco d'Oliva, quando è entrato con quella voce un po' fine. Buonasera. Ciao a tutti, ciao Natale, riprendi. Ciao, andiamo bene, andiamo. Vabbè, come procede, tutto bene? Ah, così, guarda cosa mi fa di quella voce di merda che c'è. A Giordano. Tore ieri era con me, sta facendo il corso con me, Tore. Mi sa che vi supera tutti, Chi? Tore Squalo. Ehi, con me sta facendo il corso, vabbè, la salva. A me non è che mi interessi più di tanto, ma mi fa bene la 27, se c'è gente mi fa bene anche qua. Diciamo che faccio ascolto, le altre frequenze, ma non mi interessa parlarci. Avanti Marco, Condor. E beh, come procede qua? Io accendo una volta ogni... oppure rimane acceso ma con il volume a zero, tanto per fare lavorare gli apparati. L'apparato è sempre 3.900. Marco, non è che c'hai un'antenna, una base magnetica con l'attacco a PL, no? Perché quel passo di fusare è diventato furioso, reparto agitati. Ma tu intendi una base in più che non uso? Sì, che non usi, allora. Gatta, quanto voleva la base magnetica più piccola di quella che ho io, senza né cavo né attacco. Di un prezzo. Solo la base, 40 euro col cavo, 40 euro. 45 euro senza né cavo né attacco, solo la base è più piccola di quella che ho io, nello stesso tipo però più piccola. Per non togliere l'antenna della 27, da quella che ho io. Ordatela da internet. Ecco. Ma praticamente può essere, siccome tratta marca LEM, può essere che sia la base LEM, però anziché da 15 o 16 come quella che avevo avuto Gianni, quella da tipo 12. E quella piccola, io ce l'ho grande, ce l'ho. Quella dove c'è attaccata la base della PLC 800. Natalì, in più no, io ne ho una da 16, c'è un'antenna sopra, una da 12, c'è l'altra antenna a PL, credo di averne solo due, in più però no, in più no. Ehi, me la ordino da fuori, là. No, aspetta, però è strano, tu la vuoi con l'attacco PL, ma questa base che ti dà lui, che base è? Cioè non ha niente, non ha cavo, non ha nulla, cosa ti danno? Solo il magnete col basamento? Solo il magnete e bu. Altre antenne pronte non ne aveva, altre che basi non ne aveva, capito? C'aveva solo quella vuota, senza nessun attacco, come l'ho presa io per mettere l'antenna della 27, me l'ho costruita io praticamente. parte, perché la base ce l'avevo nella PLC 800, è solo un foro e buco. Sì, allora è quella della LEM, secondo me è quella, ne hanno due modelli. Gianni l'aveva avuta, mi pare che c'era anche, o già una volta ti si era staccata l'antenna, sbaglio, ma stavi tirando di brutto, no? Fino a che velocità ti ha retto, tu te lo ricordi? Sì, sono stato a 160, praticamente mi ero dimenticato che c'era l'antenna sopra. E ho sentito bu, se non fossimo manco fermare, che nella sala di Alghero non c'era più da fermarti. E poi ho fatto la rientranza, mi sono fermato lì e l'antenna era tutta quanta. L'antenna non si è fatta nulla, ma si è spaccato tutto il basamento. La base si è tutta spaccata. Ma qual era? Quella da un metro o da due? Quella grande della LEM, quella più grande della LEM. Ah, l'antenna grande, sì. Quindi 2 metri d'antenna, là. Sì, l'antenna era quella grande. No, pensavo alla base, che stavi dicendo. La base è quella della LEM originale, quella grande, quella più grande che aveva. Attenzione. Avanti, Giuseppe. Gappa. Come vi arrivo? Bene da me, Giuseppe. Ben sentito, buonasera. Avanti. C'è Natalino e c'è anche Marco Condor, l'altro chi vu tappa. Ciao Natalino, ciao Marco, buonasera a tutti. Ciao Giuseppe, mi ha sentito dopo tanto. Ciao Giuseppe, qui arrivi Santiago 5, modulato Santiago 6. Tappa, io ti tiro fuori poco. Sì, sto usando 3 watt praticamente. Avanti, riprendete voi un attimo. Giuseppe, Santiago 8 qua arrivi. Santiago 8, quasi 9. Volo tragico, 7 morti. Pensavo. Santalino, che al mattarello. Mi ha sovramodulato. È senza microfono lì. Il microfono mio si usa da lontano. Anzi, se ridi a Roma e fa, mi ha trimaginato. Sì, abbiamo sentito più alleghi a te. Ciao, conce. Già ti ha sentito, non ti preoccupare. Sì. Avanti, Marco Condor. Ho un apparecchio che non mi sta andando. Ho acceso l'intec base, sono andato a modulare e non esce. Quale base? L'intec, ce l'ho presente. Quello che c'ha 3 strumenti. Quello lì. Praticamente lo stavo usando fino a Montini, che se non l'ho acceso e senti X, però non mi funzionava lo svoltovattometro, che io ce l'ho sempre attaccato, no? Ho guardato per se c'era qualche problema e non si muovevano le lancette, ho provato con le trappole che lo svoltovattometro funziona tranquillamente, con quello non funziona. Poi ho pensato che fosse il microfono, ma la lucetta rossa del microfono si accende, esce la scritta TX quando modulo, però non è che di radio, perché poi la talina non mi sentiva quando lo stavo chiamando e non capisco cosa possa essere. No, il 3104F, quello lì sì, l'avevo avuto anch'io, io lo odiavo quell'apparecchio. Pensa che era di Mastor, 20 anni, se non 25, fermo, e poi l'avevo dato a Pomponio che l'aveva tutto sistemato e gli funzionava. Avanti Giuseppe. E Marco da dove sta modulando già? Marco zona via Nissa lì. Ah, sì, perdon beh, già, io ho fatto anche il calcolo. Allora, con tutti questi metri di 213 perdo un terzo della potenza. Cioè, se dopo il filtro solito che conoscete io ho 3 watt utili, praticamente dall'antenna ne escono, se va bene, 2. Un watt viene disperso come perdita del cavo. Se invece va male, me la dimezza la potenza. Sai, tra saldature, spinotti, IPL, no, che saranno anche vecchi, li ho fatti nel 2010, figurati. No, nel 2000, intorno a quegli anni. E quindi potrebbe essere anche un watt e mezzo mi che arriva all'antenna. È un problema, mi non sembra, ma la lunghezza del cavo si mangia. E meno male che il 213 già, spostato il 58 non arrivavo da qui a voi. Ma ancora la landriga arrivavi, E allora, non arrivavo ancora la landriga. Quindi quando io uso l'aiutino, che sono miseri 50 watt reali, dall'antenna riusciranno 30 se ti va bene, se ti va male 25, quindi vedete che non bastano mai i watt. Ma c'è l'allarme, che secondo voi si sente ui. L'allarme? Sì, si sente questo, ui. Oh, sarà il bip che non funziona, aspetta che mi ascolto, 1, 2, 3. No, c'è una portantina in propagazione però, col baramobile. Aumenta però per la radio, Marco. Mic normale già, qua è tutto a manetta. Allora, sì, vai. Avanti Giuseppe. Dimmi una cosa Gianni, sta arrivando meglio o peggio dell'altro giorno? Mi sembra meglio. Tu Natali, qui arrivi una fucilata. Sì, sto usando il Superstar 3009. L'ho aperto stamattina e ne ho tolto il bipping. Sono riuscito a togliere il bip, so come fare. E perché l'hai tolto? Perché mi dava fastidio, faceva ui, e poi ritardava la portante. Manda subito informazioni dettagliate, che la tolgo anch'io. No, mica un lavoro da fare, no, non te lo dico, sennò è un macello. Bene, sto scendo di radio. Bene, bene. Ma voglio dire, fracassoma la radio è oppure normale? No, oddio, è abbastanza fracassona, Si sente anche di fondo musica o quando parla concetta, eccetera. Guarda, è così come va la radio. Ecco, così sembra un mic normale, però si sente lo stesso la musica di fondo. Perché c'è la televisione ed è bassa, però è lui che amplifica maledetto. Vabbè, si è amplificato il suo lavoro. Papà, ditemi una cosa, le misure per l'RT58 per la Sigma? Le 11:11 devi andare. Ma per quella manico di scopa parlo? Sì, devi andare di 11:20, 11:20. 11:22, eccetera, eccetera. Papà. Se è mezz'onda, 5:50. No, Natali, io quella col tipo manico di scopa mi interessa sapere il minimo. Il minimo è 5:50, se no 11, capito? Poi aggiungi altre 5:50, poi ne aggiungi altre 5:50, è sempre mezz'onda. Anzi, il minimo è 2:75, per l'esattezza, un quarto d'onda è 2,75 m. Per buttare giù le stazionarie. Prova a vedere così. Quanto te ne servono di metri? Quanto ci sarà dall'antenna a dove sei tu? Guarda, siamo intorno ai 3 metri. Allora fallo 5,50, dai. Perché supera i 2,75, quindi 5,50 per essere esatti. Gappa, adesso me lo segno. Fai così. Io pensavo a dove si mettere sul tetto. No, ce l'ha lì, sarà attaccato al terrazzino. Sarà una di quelle bazooka, forse. Natalino. Eia. Mando un controllino veloce, che sto provando con la radio che ti ho mandato. 9:20, radio 5, già sta andando. No, mi interessava più la radio che il segnale. Va bene, grazie. No, la radio già va bene. Attaccato ce l'hai il forcetto. Lei ha attaccato, tirato tutto, quello che si doveva tirare. Ma il microfono non è normale, Luca. No, l'MC60 è questo. Si sente. Oh Natali. Oi. Ascolta, 5:50 dopo attacco al PL. La PL a PL. 5:50 deve essere. Da punta a punta. Marco, mi ho fatto arrivare un T200/2. T200. Cos'è un toroide? Per farmi quell'antenna a canna da pesca. Mi voglio divertire. L'ho già fatto il balum. Sì, pensavo Natali che lì quando farei attività in HF speriamo che la posizione tua non sia troppo penalizzante, perché 27 hai visto certe volte quanto ascolti basso le persone di fuori. Lo so. Comunque 10 metri con questa antenna ascolto benissimo, bene. Poi c'ho quello dei 20, ascolto bene lo stesso, addirittura ha detto il dirimpettaio che sono fortunato a ascoltare come stavo ascoltando. Ed è basso il dipolo. Se tu vedi come è messo ti metti a ridere. Sarebbe bello alzarlo, allontanarlo il più possibile dagli ostacoli, allora comincia a entrare in coppia, capito, come motori. Vai Gianni. Io sto pensando cosa posso avere questa radio, faranno per esclusione, si abbassa il finale, la giura così. Tu regalala a me quella lì, vedrai che io ho e non metto male. Forse abbiamo parlato in due. Ho detto, stai usando la static perché la radio sembra un po' fine. Sì, la static è con Ruiz. Ehi, un po' la timbrica si sente. Cappa, vabbè. C'è avevo l'altro, ma attaccato il Ruiz adesso così, ritardo cambio. Una informazione, Giuseppe, da dove sta modulando? Giuseppe, la stessa di due. Ah, ma c'ha antenne di fortuna, non ha l'antenna sul tetto, no? Credevo che fosse lontano, insomma. No, infatti, quando gli ho parlato di antenna, pensavo la volesse mettere sul tetto, capito? Per quello gli ho detto di 11 metri, 11 metri. Eia, il manganello. Ma esistono antenne giusti adesso senza radiali, vanno benissimo, capito? Se ti interessa, guarda su internet, ce ne sono tante senza radiali, anche la talina sta usando quella senza radiali. Ma quella lì è un'antenna che va bene sulle barche, Giuseppe, deve avere un piano riflettente, capito? È un'antenna che c'aveva qualche bombo quella lì, esce dal Garalandriga, infatti, uscivo più forte io con l'antenna della macchina. Se mettevo l'antenna della... Te lo ricordi con la Sigma? Sopra il frigorifero come uscivo io già. Sì, me lo ricordo, andava bene. Io l'avevo messa sul termosifone il primo periodo. Natalì, l'avevi testata poi la frusta nera, l'avevi già data? No, l'ho testata. Lo sai la differenza che c'è tra la PLC 800 e quella lì, la frusta nera attaccata nel tettuccio, fissa, un abisso, non c'è confronto. Arrivavo con la frusta nera attaccata fissa al tettuccio della macchina, Santiago 7. Ho attaccato la PLC 800 sulla base magnetica, arrivavo 9,10. A te la differenza. Io avevo comprato invece andando, mi ero fermato al distributore d'ottava, no? Avevo comprato la frusta nera sulla stessa base e anche con l'antenna da un metro della Sirio, quella con la bobina centrale, che sembra una bibanda a me. Ed erano pari i segnali, capito? Pari, se non infinitesimale. Differenza mi pare da Carlo c'era una differenza un po' minima, però trascurabile, credo. La lunghezza vuol dire, non c'è nulla da fare. Mi sono messo, lo sai dove proprio? Dove andavate voi a fare di ex, vicino a casa di Marco, lì mi sono messo. Beh, con la frusta nera arrivavo Santiago 7, invece con la PLC 800 9,10, penso che ci sia un bel po' di differenza. Cacchio, e la PLC 800 quanti metri? 1,50, 1,60, quant'è? Non l'ho misurata. Però la PLC 800 da considerare che era sulla base magnetica, invece la frusta nera era attaccata fissa sul tettuccio della macchina, dove c'avevo l'antenna VHF io, che me ne l'hanno stracciata per dispetto, bastardi. Mi hanno rotto anche l'attacco, quindi non posso mettere neanche uno stilo, perché me l'hanno rotto l'attacco. Adesso meglio vado. Sì, sì, già, non ti mettere problemi però, modula come devi modulare, adesso è, sembra già migliore. No, oh, non mi metto problemi, è che praticamente mi faccio girare, dai, ogni tanto cambio le cambine. Sì, questa è una timbrica che io preferisco. Tu con l'altro è, sai che effetto fa con la start? È come se stessi parlando, mi cogli tutto attaccato al microfono. Gianni, dallo a me quell'inchete, che gli metto l'MB più 4 e facciamo uscire le scintille. E piano piano, va. 150. Ah, razzù, che cazzo, bagato, giù. Ma te lo vuoi immaginare? Marco, te lo vuoi immaginare quanto è venale questo ragazzo? Oltre... No, ma cosa? Ascolta, ha portato di lì per lo scelatore dalla scatoletta dal miscelatore. Bravo, Giuseppe, come mi ascolti con questo? E qui stai arrivando a bomba. E questo è sì, allora. Questo è un cover. Bella come radio e come segnale. Ti mando una foto qui a vedere. Adesso scappo, vado a fare una commissione prima che chiuda il negozio. Ci sentiamo forse una mezz'ora. Tranquillo, dai, ci sentiamo dopo. Oh già. Vai, sa. Gianni. Dimmi. Ma lo sai che sta chiamando quasi ogni sera a casa? No. Minchia, Ulisse. Porco. Guarda, una sera ve lo faccio salutare, vi faccio salutare tramite telefono e radio. Deve essere che poveretto non sa, parla con mamma, io dico sempre che sono fuori, dici che sono fuori, perché sennò si attacca il bottone, addio Migia. Capito? Dici che ci sei rimasto nel cuore. Ancora innamorato di te. Come l'ha avuto il numero? Marco, ciao Marco, ciao Gianni. Tutte le volte che parli tu, Marco, sì, c'è l'innesco di una portantina. Sì, sì, c'è una portante, sarà il solito babbeo. Ma si copre con la reme, non c'è problema. Ciao Giulio, buonasera. Ciao Gianni. No, ho voluto intervenire solo per quello. Sto guardando la partita io, la partita di calcio, Atalanta-Napoli, 1-2 al momento. Primo tempo appena finito. Va bene, dai, continuate pure, io continuo a vedere la televisione. Vai Marco. E io, ciao Giulio, dopo tanto, ben sentito. Listo, alla vedi, bara mobile deve essere. Comunque non ti fa niente Marco, assolutamente niente, passi tranquillamente. Sì, no, ma se necessario chiudo, io non vivo di 27, ci mancherebbe. Probabilmente un sì per mettere portante, non si spiega. No, non c'è motivo di chiudere, perché intanto non ti fa niente. Ma voi dai, continuate, divertitevi, io continuo a guardare la televisione, dai. Ciao a tutti, scusate per l'intervento. Ciao, ciao, dai, se vuoi rimanere non c'è problema, dai, ma so che ti piace il calcio. KK, dai, avanti, ma... Un attimo, sono al telefono. Natalini, piglia che sono al telefono. Ecco fatto. Natalino stava disturbando davvero, non stava scherzando, no? Non lo so, Marco, ma penso che non stesse scherzando, che l'ha avvisato Concetta. Cesso, che rimbambito, c'aveva il volume a zero. Te lo metto io che rimbasso di volume. Ma sai, quando sono al telefono poi non riesco a seguire, se no. E ti volevo dire, ma Natalino non stava scherzando, si disturba davvero. Non lo so, ma penso proprio che non stesse scherzando la moglie. Sì, ma lì non lo possono mitragliare così, avanti in tre, cazzo. Vabbè. Speriamo che non disturbi con la radio amatoriale se si prende la patente. Vabbè, lui ci fa tanti problemi, cioè lui in regola può modulare come quando vuole, chi ha problemi la TV si mette a posto l'impianto. Mamma mia, quante volte l'abbiamo fatto quel discorso, ancora così sono. Poi sai, quando piove incasina gli impianti vecchi, li incasina, capito? Che c'è ancora il miscelatore ed è tipo acquario, no? Con i pecciolini dentro, la scatoletta. Ma chi è che ce l'ha con te? Stanno mettendo la portante, una portantina, o metto appena va? Non ho niente, ho staccato, tutto staccato, c'ho il baracchino e filtro e antenna. Vabbè ragazzi, Ciao Bra, mi sentite, avanti. Ho sentito che avete ospiti. Scusa, non ho capito che stavano parlando qua a casa, dico. Ho sentito che avete ospiti. Ospiti? Ehi, c'è una portantina, c'è. Ciao Marco. C'è una portantina. Dipende chi entra, là. Vabbè, dai, comunque. Ci mancava. Come va Marco lì, tutto bene? Bene, è una parola grossa, però tiriamo avanti, dai. Meglio non pensarci. Dai, come tutti, ne abbiamo problemi, dai. Lasciamoceli alle spalle, quello che finché possiamo. Sì, perché se poi uno si fa venire le paranoie e si lascia andare, è peggio. Poi questa storia, questa crisi inventata, la guerra, la pseudoguerra lì, mamma mia. Non è bastata la pandemia a buttarci giù di morale, ma anche quella pilotata, ecco. Sì, tutto fatto per spillarci un po' di soldi. Eia, caspita, ho visto l'olio di 9 a 3 euro da tipo Lidl, l'olio volgare, olio di semi, 2,99. Oh. No, ho visto l'olio Dante invece, l'extravergine, un litro a 3,80 euro, 3,90, già un buon prezzo per essere il Dante. Non mi ricordo dove, c'è la Crai. Sì, non è male, però è che mi serviva proprio l'olio generico, no? Di semi, così. Vabbè, riprendete, dai, bianco per me un attimino, sto facendo roba. Però non sto pagando più di 6 euro, lo. No, è tutto caro, sta diventando. Il latte, guarda, non ne parliamo, il pane, i beni di prima necessità. C'è qualcun altro oltre voi? Sì, c'era Giuseppe, si era allontanato, un attimo è andato a comprare della roba in fretta, ha detto che rientrava. Poi c'è Natalino che a quanto ho capito sta disturbando, sta facendo TV. Torna anche con questa antenna. Porca miseria. Non ci voleva. Poi l'altro che ha detto Giovanni, Giuseppe, che hai detto? Che non ho capito. Giuseppe è tornato. Da quando non lo sento, non vedo. Natalino, puoi riprendere, almeno per dirci sì o no se sei disturbato. C'è anche il microfono normale, così, o no? No, forse non stavo uscendo un microfono amplificato questi giorni. Natalino sì. Conviene mettere il microfono normale, magari disturba sicuramente meno. Sì, noi dobbiamo mettere tutto normale, se no un casino. Vedi, questo apparecchio che ho io, che c'è con due batteri, va bene. Lo usa così, esce bene. Diciamo che stasera sono andato a accenderlo fra e vedevo, siccome c'ho sempre lo smetro batterio, vedo che c'ho di quelli grandi da stazione io, ce l'ho sempre attaccato per tutti gli apparecchi. Come modulo mi dà le stazionali e tutto, il batterio. Beh, fate sa che stasera non si arrivano le lancette, non riesco a capire cosa sia. Allora l'apparato esce in TX, però non mi sento. Che non sia, sto pensando che non sia qualche filo staccato del microfono, perché il microfono amplificato si accende la luce quando modulo, però non esce. La portante la vedono gli altri? Non lo so se la vedo, ma penso di no. Comunque qua la modulazione esce, perché il modulatore ondeggia da una parte all'altra, c'è anche il modulatore in questo apparecchio, quindi ondeggia e va da una parte all'altra. Almeno lo puoi provare adesso. Sì che lo posso provare, non c'è problema. Allora così vediamo se il segnale esce, che non, siano, non sia il finale, capito? Finale di in uscita. Io adesso sto attaccando e ti chiamo fra 5 minuti, se non mi senti vuol dire che non sta andando. Sì, addirittura 5 minuti ci metti. Prova, funziona? Certo che funziona. Non vedo i picchi, vabbè. No, adesso sto provando la scatoletta aggiuntiva. Così da, sta andando tutto. E qua è tutto fermo. No, tutto apparecchi che non uso da mesi. Perfetta. 9.30 il segnale, la radio chiarissima, non si sente nessuna compressione, nulla, come se niente fosse. Così mi piace. Vabbè, sono pochi comunque. Va bene, Gianni sta attaccando un apparecchio, io fra poco appena mi chiamano devo fare una commissione urgentissima. Sì, detto che prova un apparecchio che non sta uscendo, vediamo se è un problema di microfono, vediamo se esce almeno l'importante, speriamo. Riga, ascolta, se dovessi sparire, ritenetevi tutti salutati, ok? K, grazie, ti ringrazio, anche a te, mi hai sentito dopo tanto, noi tanto ci facciamo sentire, dai, anch'io sono come te più o meno, credo. Un abbraccio e alla prossima, riferirò anche a Gianni. Ehi, vediamo se Natalino c'è, puoi rispondere Natali sì o no e boh. Sì, non è che sta chiamando Gianni. No, non sento niente. Sento che sale un po' il QRM, magari sta uscendo bassissimo, capito? Guarda, se sei tu, si sente appena appena di QRM e basta, però non si capisce niente, se sei tu Gianni, eh. Se sei tu ritorna come prima, non stai uscendo di segnale. No, qua non noto niente. No, io sento qualcuno che parla c'è sotto, però mi solleva leggermente il QRM, sento la differenza di quando parla e quando stacca, dai. Aumenta un po' il QRM, però non si capisce niente proprio. Quindi sicuramente sono i finali, Speriamo di no. Forse, vabbè, potrebbero essere 19.69, adesso non mi ricordo quella radio che finale montasse. E lui li segna tutto, gli va in TX, però addirittura il modulatore gli segna che sta funzionando, però dei segnali non sta uscendo, l'importante non esce. Non mi sentivate, vero? Io sentivo che parlavi, eri tu? Sì, ero io, stavo parlando io, non so cosa sia successo, non capisco cosa possa essere. Sicuramente stavo uscendo forse 0,5 milliwatt, Poi chiamalo proprio in casa, vediamo un po' se esce il radio in casa, che non abbia toccato qualche tasto, perché qua sono 1000 tasti. No, proprio anche con mezzo watt qui sei arrivato a 9,10, 9,20 con mezzo watt, proprio non c'è nessun segnale. E allora, o è il coso, il finale, oppure qualche cosa nel microfono, capito? Che magari si è staccato qualche filo. No, ma l'importante doveva uscire, invece proprio non c'è segnale proprio. È più, io direi più il finale, qualcosa che non arriva comunque al finale, non arriva segnale, non eroga, non lo so, speriamo bene, dai. Che apparecchio è? Litec Bus. Quello qui, quello grande. Di che anno è? Sarà anni 70, 80, Non è a valvole, no, è a transistor. Transistor, sì. È già moderno, eh. Non è valvolare, è bello, eh. Sicuramente. Ah, Marco saluta a tutti, adesso. Grazie Marco, grazie. Ha provato la scarpetta e usciva benissimo già, Ti saluto Marco, anche a te, dai. Sì, sono qua, sto aspettando chiamata, attendo chiamata. Eia, è così attaccato già. 1, 2, 3, 4, 5. Va bene, va bene, va. Alla grande. Come fai ero come si chiama? Porto Conte. C'erano, mi sembra, 3-4 cinghiali. Proprio vengono per chiederti da mangiare, quasi dalle mani, sicuramente lo prendono anche dalle mani questo, ho visto come quanto si sono avvicinati. E non c'è bisogno del rapporto cotto, sotto casa vengono, ma ingreppami, rombali una decina, tutti quanti passano sotto casa, tutte le sette. Ma questi li ho filmati da un metro di distanza, proprio vicini, quindi tipo formichiere, col muso lungo, razza sarda proprio, non diventano tanto grandi quelli. Non darli mai da mangiare perché ti mordono la mano, e mia sorella gli hanno rotto un dito. È andata alla Sinara, stavamo mangiando i panini con le amiche, le ha detto, dai, non pezzi, lei ha preso scema, lì da col dito, gli stava dando il pane, gli ha moscato il dito e le ha troncato. Sono bei voraci. No, non avevo neanche niente da dargli da mangiare, però si vede che sono abituati perché ci sono dei tegami, sicuramente lì mettono a mangiare i gatti, e loro cacciano via i gatti e si mangiano le crocchette, tutto ciò che li viene messo, dai. E oramai si sono abituati qua, capito? Si sono abituati di qua. Quando è partito ne ha preso il treno, ne ha preso un paio. Uno stamattina l'ho visto, era ancora vivo, sicuramente gli ha spezzato il collo, muoveva solo la testa, poverino. Infatti ho avvisato un amico se poteva andare lì a dargli un colpo di grazia perché stava soffrendo. Ebbene, non ve l'avete mangiato? Di quando è così, è un paio di giorni già moribondo, a parte gli viene la febbre, la carne non è più buona. Vabbè, ma se era vivo non penso. Così mi hanno detto, mi ha detto un cacciatore, quello che è andato a controllarlo. Sicuramente non è più buona la carne. No, io non me ne intendo, però chiedo venia perché non lo so, non me ne intendo, però pensavo che fossero buoni, che se tu li investi che troppo in fretta per mangiare, no? Sì, se lo investi e muore, perde il sangue soprattutto, perché deve anche perdere il sangue, non deve rimanere lì dentro il sangue. Va bene, ma se rimane così in agonia, magari c'ha dei problemi, gli sale la febbre, la carne dice che si rovina, queste sono cose che dicono non so, gli esperti. No, vabbè, la prima cosa che sento sinceramente, però quasi che sia così. Ma io l'avevo già sentito altre volte di questa affare della febbre. Per esempio a volte capita, cioè capita Dio, ne ho visto certi presi con l'aceto. La carne è proprio nera, scurissima, perché? Perché la morte non è stata normale, deve perdere il sangue, se il sangue rimane tutto dentro la carne, e diventa scura, nera e brutta anche da vedere. Marco, se n'è andato, chi è rimasto? Non lo so, chi c'era? Natalino ci va un po' a parlare, non sa, non c'era nessun altro. L'animale va a punto, è fatto scolare, è messo diciamo a testa in giù e deve perdere tutto il sangue, allora la carne rimane bella. Penso che ha cambiato il tempo, dai. Sì, un po' fa freddo, ma dice che si riprende poi, da domenica dice che si riprende di nuovo. Già domani è messo bel tempo, 20 gradi, e poi dovremmo arrivare sui 23 anche a metà settimana. Tu mi stai parlando della Dinara, quando è che sono andato? Il giorno dei Santi, ero lì. Abbiamo fatto la traversata in gommone e poi lì abbiamo preso un fuoristrada. Adesso si può arrivare, sì. Io sono andato dal villaggio Ancora, siamo partiti da lì, da Stentino, proprio vicino alla Pelosa. Arrivi in un attimo, sei già, come si chiama, Fornelli? Quindi lì abbiamo preso fuori strada, non me l'aspettavo così grande, sapevo che fosse così un po' lunga, ma non immaginavo che fosse così, così grande come isola. Io non ci sono mai stato, lo so. Io dovevo andarci qualche altra volta e ho dovuto sempre rinunciare perché non mi garantivano il rientro. I miei figli sono andati tutti e due, io non ci sono mai andato. E vabbè, già capiterà, dai, già capiterà. Addirittura mi hanno invitato anche a rimanere 3 giorni lì, venerdì, sabato e domenica. Invece sono reperibile, non ho potuto accettare, mi dispiace. Lì c'è un nostro amico, lo scultore, come si chiama? Merio, mi pare. Sì. Che è una persona veramente in gamba, che è un ex guardia carcere, addirittura era uno dei 4 che custodiva dottor Reina. E ormai gli è rimasta lì, gli è rimasta nel sangue. È una persona veramente in gamba, eh. Lui è sempre lì praticamente. Sono più carcerati loro di quelli che tengono, cavolo. Guarda, loro i carcerati finiscono la pena e se ne vanno. Loro stanno sempre lì. E lui ne ha fatto quasi 40 anni lì. Quindi anche lui praticamente era un carcerato. Perché lui era da una parte del vetro e lui era dall'altra. Ma si è fatto visitare anche il carcere, dove c'è proprio il vetro dove facevano i colloqui, quei brigatisti rossi, anni 70-80. Il vetro grosso è tutto spaccato, anche se ancora la parte esterna è integra, però l'interno è tutto scheggiato, come sbattevano dice, gli sgabelli, le sedie, questi brigatisti che volevano il contatto con i loro familiari, invece c'era questo vetro enorme. Ti ricattavano anche, io avevo un amico lo stesso, gli avevano detto se non porti fuori questa lettera, non so che cosa, sappiamo dove abiti, ti indirizzo e tutto, sapevano tutto dove abitava la famiglia. Quelli che c'erano fuori indagavano, sapevano tutto di tutti, sì. È sempre stato così, non è semplice, molti non reggevano la pressione, non sono tutti. Lui meno male ha detto che aveva il lobby della scultura, quindi ci faceva un giro nell'isola e ci ha raccontato tutto, non ho mai tagliato un albero, ho sempre preso quello che portava al mare, ma ci sono tronchi, dice, anche di vari quintali, anche tonnellate, dice, arrivava di tutto. Sì, ci sono, mi hanno detto che ci sono i pesci che si vedono in riva. Qualche sarago l'ho visto, poi non ho fatto immersione, abbiamo più che altro abbiamo girato in fuoristrada e poi visto le calette, ci siamo fermati, sì, a vedere, ho visto l'ossario, ci sono un paio di bar, no? fortunatamente aperti, perché c'era un attaccoppia con noi che neanche acqua aveva. Ma come si fa ad andare in escursione senza acqua? Boh, almeno l'acqua portatela. Sarebbe infatti, e magari si sono dimenticati, dai. Vabbè, dai, io adesso ti saluto, che vado a vedermi questo microfono, mi stava venendo la paranoia, voglio vedere se il microfono, mi auguro che sia quello. Ciao, ci sentiamo, fra, dai, stammi bene, se entra Giuseppe che tu resti, salutami da parte mia. Orologio c'hai, mi dici che ora è, se c'è l'orologio portato di mano. Sono le 7:15 passate. Ok, ti ringrazio. Dai, alla prossima allora, anche io ti auguro che non sia niente. Speriamo bene, incrociamo le dita, come si dice. Alla prossima, ciao Gianni. Ciao anche Marco, se sei ancora all'ascolto. Ciao. Ciao Gianni, ciao.